voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Sergio Schiavoni, i quadri elettrici di Imesa nel mondo per piattaforme, portaerei e aziende dal Kuwait all'Iran. Diana Marino. Andare per esempio in questi paesi dove c'era stata la guerra era insomma un disastro, insomma. Quindi vedere come fare a piazzare anche i quadri elettrici nostri, l'illuminazione o tutto quello che serve per dare corrente era un compito abbastanza interessante ma anche difficile, no? Questo quadro lo mettiamo qui, lo mettiamo da un'altra parte, ma andava fatta una certa riflessione, no? Magari alla sera quando dopo uno aveva preso gli appunti, dopo la mattina gli veniva in mente, dice allora il quadro lo mettiamo qui perché poi dopo la corrente arriva da un'altra parte, quindi l'utilizzo è lì e quindi lo devo mettere mediano rispetto a dove producono. Quindi queste cose qui vengono spontanee per chi ha del mestiere. Al colpo d'occhio uno sa subito, come quando uno entra in un appartamento, dice subito dov'è gli interruttori di dove si accende la luce iniziale. Deve essere vicino alla porta, no? Altrimenti entra il buio. Quindi questo è il concetto fondamentale per chi gestisce l'elettricità. L'emozione di viaggiare e lavorare in paesi tormentati dalla guerra in cui tutto è da ricostruire, fin dalle fondamenta, è quella che prova Sergio Schiavoni, il presidente del gruppo Imesa, un'impresa a gestione familiare che è anche una società per azioni, che opera dal 1972 nel campo delle costruzioni elettromeccaniche. Ad esempio, di quadri elettrici di media e bassa tensione e sistemi di supervisione e controllo e impianti elettrici chiavi in mano. La base è nella marchigiana Iesi, in provincia di Ancona, ma ci sono sedi a Roma, Milano e Dubai. Conta 200 dipendenti per un fatturato di circa 35 milioni di euro. Collabora con importanti aziende italiane ed estere, come Enel, Saipem, Terna, Tecnimont, Fincantieri, Eni, Enipower, Petrofac, Lukoil. I prodotti Imesa sono in 33 paesi del mondo, ma alcuni restano nel cuore e nella memoria di Sergio Schiavoni. Il Kurdistan, l'Iraq, il Libia, Algeria e poi in ultimo in Iran. L'Iran è un grande paese e siamo meravigliati, le persone come sono serie, sono competenti sulla materia che ci riguarda elettrica, al pari di noi, nonostante che abbiano avuto un isolamento di tanti anni. C'hanno già tutto come noi, solo che le apparecchiature che c'hanno sono vecchiotte e quindi c'hanno la necessità di essere rinverdite. Cioè, naturalmente hanno saltato 2-3 generazioni di prodotti che sono entrati nel mercato. Tra le principali realizzazioni, i quadri elettrici per la prima portaerei italiana, Cavour. Per la Fincantieri, installazioni per molte navi da crociera, la ricostruzione dell'impianto elettrico stradale della città di Bassora, distrutto nel conflitto iracheno. Il lavoro si cerca viaggiando di persona, con tutta la famiglia. Se uno vuole avere il lavoro in continuazione, bisogna che allarga la visione oltre l'Italia, perché in questi ultimi anni, dal 2008 fino adesso, il mercato industriale dei nostri prodotti è completamente azzerato. Fuorché le navi da crociera hanno un portafoglio notevole e quindi quelle ci procurano moltissimo lavoro. Per quanto riguarda il resto, naturalmente noi abbiamo l'ufficio giù a Dubai, monitoriamo tutta la parte degli Emirati, no? Kuwait, Sharjah, Dubai, Abu Dhabi. Dal 2002, un periodo magro, ci ha portato moltissimo lavoro. Noi abbiamo investito moltissimo nella parte commerciale. Cioè tutta la nostra famiglia che opera fanno tutti i commerciali. Ci abbiamo un bellissimo direttore che gestisce l'azienda, ma noi andiamo a procurare gli ordini, che è la cosa più importante. Sergio Schiavoni nasce ad Ancona il 1 febbraio 1939 da Lino Schiavoni, artigiano tappezziere. Oggi è padre di 4 figli, nonno di 7 nipoti e bisnonno di Margherita, l'ultima arrivata in famiglia nell'agosto del 2015. Mio padre faceva il tappezziere nel dopoguerra, tenendo conto che io da piccolo ho seguito tutto il dopoguerra, insomma, no? Perché avevo 5-6 anni, mio padre era tornato dalla Russia e quindi ha dovuto iniziare l'attività da nuovo. C'aveva un negozio prima, però naturalmente quando è arrivato era tutto già disastrato, eccetera. Durante le feste estive mio padre mi faceva lavorare. Chi voleva naturalmente progredire a quell'epoca bisognava che lavorava il sabato, la domenica, domenica e tutte le feste comandate. Tant'è che questa istruzione che mi ha dato mio padre e mia madre, che lavoravano incessantemente per mantenere la famiglia e poi per darci un certo benessere, mi è rimasta a me e io cerco di inculcarlo agli altri, qualche volta con poco successo, no? Perché chi è arrivato dal dopoguerra conosce bene la storia, chi è nato adesso non sa quello che si è patito prima. La formazione è la chiave della sua svolta imprenditoriale. L'elettrotecnica è stata la specializzazione da lui preferita fin dall'infanzia. Nel 1960 inizia il percorso professionale di Sergio Schiavoni. Viene assunto alla Pirelli di Milano, ma poco dopo passa all'Agip Mineraria del gruppo Eni, sentendo il richiamo del conterraneo Enrico Mattei, marchigiano e presidente dell'ente petrolifero di Stato. E Mattei era uno che, insomma, chiaro, selettivo, e quando ci ha assunto, mi ricordo, ha detto: ah, mi raccomando, dai marchigiani pretendo molto di più degli altri, perché è una regione che dei lavoratori, insomma, che da migliorare. Quindi quando ci hanno fatto un pranzo, mi ricordo, non eravamo molti, eravamo una decina assunti, di cui la metà eravamo marchigiani, ci ha fatto questa predica. L'azienda nasce per iniziativa di Sergio Schiavoni, che da anconetano decide di mettere a frutto la propria esperienza nel campo dell'elettrotecnica, avviando a Iesi la prima officina per la realizzazione di quadri elettrici. Non è stata una volontà, è stata una necessità. Cioè, nel 1972 ad Ancona è arrivato il terremoto. Diciamo, ha messo fuori giusto tutta la città. Io, che avevo già in mente di fare l'industria, allora ho piazzato questa industria a Iesi, dove il terremoto non c'era. E quindi ho detto, dico, eventualmente sposto tutta, anche la famiglia, a Iesi, no? Perché lì si sta tranquilli. Abbiamo fatto un capannone da 5.000 metri, no? Devo dire che è stata la mia fortuna, perché quelli di Iesi sono gente, come dire, di campagna, gente seria, oculati nella spesa, e quindi a me mi hanno insegnato anche a risparmiare. Io c'avevo la prima signora che gestiva i conti, che faceva le pulci a tutti, anche a me. Diciamo, guarda che lei spende troppo. Prodotti su misura e sicuri, velocità di consegna e anche il passaparola. Sono questi, secondo Sergio Schiavoni, i fattori che danno a Imesa la leva per i mercati internazionali, fino ad arrivare a una quota di export di oltre il 70% nel 2015. Con l'elettricità non si scherza. Se lei ci lecca un interruttore oppure un quadro e qualcuno muore, lei ha chiuso i battenti, insomma, no? Quindi noi, da questo punto di vista, i prodotti ce le facciamo in casa, le studiamo, e direi con un certo successo, perché il nostro ufficio, diciamo, tecnico è ben attrezzato. Poi portiamo a fare le prove, dalle prove vediamo se i risultati ci sono, e quindi i nostri prodotti adesso sono conosciuti in tutto il mondo grazie anche alle forniture che noi abbiamo fatto nelle navi, perché le navi viaggiano, no? Da porto in porto, e gli armatori si conoscono un po' tutti, e uno passa la voce all'altro. E noi nel mercato delle navi da lavoro, quelle specializzate per il petrolio, siamo uno dei primi. E dalla storia di Sergio Schiavoni e di una grande impresa nel campo elettromeccanico come quella a livello globale di Imesa, la storia di una piccola e media impresa nel campo metallurgico è quella di Manuela Cristina, amministratore socio delle IMC Industrie Metallurgiche Cristina. Una persona dedicata al fare e un'azienda dedicata all'incastro perfetto, come quello dei famosi mattoncini per costruzioni Lego. Quando è nata l'impresa nel 2009, sono rimaste nel passaggio le basi, sottolinea Manuela Cristina, date dalla correttezza, dagli insegnamenti del padre, dalla disponibilità dei fornitori. L'azienda è iniziata solamente 5 anni fa, sulle basi proprio di un fare che ho fatto per una vita nelle aziende di mio papà, che nel settore sicuramente della metalmeccanica, con dimensioni nettamente superiori alla nostra. Dopo alcune vicissitudini familiari nelle quali ci hanno estromesso me e mio fratello da queste aziende, ho lavorato da mio padre per 20 anni, per le basi sicuramente date dalla correttezza, dagli insegnamenti di mio padre, dalla disponibilità dei fornitori, abbiamo deciso proprio di aprire questa piccolissima realtà in questo settore, perché noi pensavamo, e effettivamente è stato un pensiero abbastanza vincente, di avere sia le capacità produttive, sia le capacità di le conoscenze, sia di aver individuato quella piccola nicchia di mercato non ancora coperta da molti. produrre con la materia prima che noi acquistiamo questi macchinari che poi vendiamo ai nostri clienti, perché noi non siamo produttori finali, però che richiedono una precisione nel montaggio, nell'assemblaggio, nella saldatura, nel taglio, molto valida, perché sono macchine di alta precisione. Quindi è come, diciamo, dei piccoli Lego che si incastrano e che devono essere assolutamente perfetti e precisi. Perfetto. Infatti sopravviviamo alla concorrenza e al mercato e alla flessione di mercato che ha avuto la settore della metalmeccanica solo, cioè, per questo. Negli anni chi vi ha aiutato? L'aiuto maggiore che abbiamo avuto sono stati i nostri fornitori, che erano fornitori che utilizzavamo di già, e gli istituti proprio di credito, perché hanno totalmente avuto fiducia in noi come persone, senza ombra di dubbio. Ecco, lei come donna, come si vede e come è stato il suo percorso? La terminologia donna si abbina molto a quella che io ero e quella che io sono e quella che sono rimasta, che è capace di entrare nel settore maschile, di essere pratica, preparata, di essere all'altezza dell'uomo, oltre però ad avere una grossa sensibilità. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.